24 Mattino. Mes chers compatriotes, vous m'avez porté au second tour de l'élection présidentielle. J'en mesure l'honneur avec humilité et reconnaissance. Je voudrais vous exprimer à vous, électeurs patriotes français, ma plus profonde gratitude. La première étape qui doit conduire les Français à l'Élysée est franchie. Ce résultat est historique. Il fait reposer sur moi désormais la responsabilité immense de la défense de la nation française, de son unité, de sa sécurité, de sa culture, de sa prospérité et de son indépendance. Eccoci. Buongiorno, buongiorno, buon lunedì da Giulia Crivelli. Alessandro ha fatto un piccolo ponte, lo risentirete poi mercoledì. E naturalmente non potevamo che iniziare con le elezioni francesi. Il primo turno c'è stato ieri, i risultati ormai sono abbastanza sicuri perché è stato scrutinato oltre il 96% dei seggi. Quella che avete sentito era Marine Le Pen che ha fatto queste dichiarazioni. Ricordiamo, Marine Le Pen ha ottenuto un po' più del 21% dei voti, però come spesso fanno i politici si sente di parlare a nome di tutti i francesi, o almeno definisce chi l'ha votata, che ricordiamo è appunto il 21%, quindi un quinto degli aventi diritto, li definisce i patrioti, e non come viene spontaneo chiedersi tutti gli altri invece non lo sarebbero. Però insomma questo è lo stile della candidata. Tra l'altro ieri sul Sole 24 Ore ne avevamo anche parlato, c'erano i tre scenari possibili, cioè al ballottaggio Le Pen, Mélenchon, che sarebbe stato secondo, soprattutto dal punto di vista dei mercati, lo scenario peggiore, uno scenario intermedio questo, quello che si è verificato, Macron-Le Pen, oppure lo scenario migliore, sempre secondo i mercati, sarebbe stato quello tra i due candidati più moderati, cioè Macron e Fillon. Ma sentiamo un primo commento, perché tutto sommato sì, erano sicuramente elezioni importanti, sono state definite storiche perché per la prima volta non ci sono i partiti storici per l'appunto al ballottaggio. Marine Le Pen, il Front National, non era mai andato al ballottaggio delle presidenziali, e sappiamo che l'altro candidato ha costruito il partito per queste elezioni, quindi non ha sicuramente, diciamo, una storia politica di partito alle spalle, e molti vedono in questo tra l'altro una sua debolezza, perché invece il Front National è molto radicato in alcune aree della Francia. Ma sentiamo appunto dai nostri due ospiti. Oggi abbiamo Silvia Brasca della 7 e Angelo Maria Perrino, direttore di Affari Italiani. Buongiorno a entrambi. Buongiorno. Buongiorno. Iniziamo da Silvia. Sono sicura che insomma l'hai seguite da vicino queste elezioni, forse come tanti di noi abbiamo cercato di aspettare fino all'ultimo, soprattutto il voto di Parigi, dove un po' come era successo a Londra per la Brexit, le percentuali sono molto diverse. La tua prima impressione e magari anche una previsione per il secondo turno, che ci sarà il ballottaggio, che ci sarà tra domenica 7 maggio, tra due settimane, e soprattutto che cosa succederà adesso, cioè che tipo di campagna elettorale ci aspetta, che toni avremo. Le Pen l'abbiamo sentita, insomma, molto decisa. Ecco, sulla campagna elettorale spero che Macron abbia toni diversi da ieri sera. È stato un po' hai detto tu, era l'ipotesi, come già aveva detto il Sole domenica, no? Dei tre scenari, sono lo scenario di mezzo. Quindi comunque contenti, insomma, soddisfatti per una Francia, insomma, che sceglie anche con un 23,5 qualcosa di inusuale. Ieri ho trovato Macron un po' debole, come già l'avevo visto anche nei dibattiti televisivi, e questi saranno 15 giorni di fuoco. Marine Le Pen ieri faceva davvero impressione per la forza che riesce a dare alle sue parole, quella citazione insomma di De Gaulle che avevano fatto tutti durante la campagna elettorale, però era molto forte. Lui l'ho trovato un po', ecco, un po' debole, un po' impreparato a quello che sarà lo scontro a due, perché un conto è vedersela con tante, un conto è proprio ad avere di fronte questo pezzo di storia di una Francia che c'è, che con la quale bisogna fare i conti. Certo, ieri vedere anche sventolare le bandiere dell'Europa faceva piacere, e vincere con questi temi, diciamo, poco diretti che a lui sono anche quando c'è stato l'attacco l'altro giorno terroristico sugli Champs-Élysées, lui ha fatto un discorso molto teorico, però a raggiungere questo risultato per un successo, per un neanche quarantenne senza un apparato di partito è qualcosa da analizzare, quindi da vedere chi ha votato Macron, che cosa non ha votato e a che cosa si affida. Insomma, una campagna elettorale bella in Francia, spero di non averne riflessi in Italia. Anche perché l'unica cosa che spero sia quella. Gli altri due, cioè Fillon ha già detto, nonostante la Le Pen gli avesse offerto appunto di unirsi in un'alleanza, Fillon ha già detto no, manco, no, assolutamente, invita i suoi elettori, poi naturalmente vedremo se lo faranno, a votare invece per Macron. E invece Mélenchon ha detto che era un po' il candidato del partito di sinistra, quindi l'unico partito tradizionale in gara, invece ha detto no, io non voglio esprimermi. Secondo te, Angelo Maria, ci sarà anche su questo un po' di, cioè il fatto di appunto conquistare il voto di chi o non ha votato, perché comunque la percentuale di affluenza non è stata altissima, oppure ha votato non per uno dei due candidati che insieme hanno raccolto poco più del 45%, quindi metà di chi ha votato dovrà esprimere un voto diverso da quello del primo turno. Io sì, certo, penso che Marine Le Pen crescerà indubbiamente, perché appunto ci sono quelle aree che tu indicavi che possono votare per lei, però mi sembra che il risultato finale non sia in discussione, prevarrà Macron, e mi sembra una scelta, diciamo, molto conformista da parte della maggioranza dei francesi, che sceglie l'uomo di Hollande, diciamo, anche se è stato abile a costruire uno storytelling un po' diverso del giovane, del grande innovatore, ma in realtà è l'uomo dell'establishment. Certo, ricordiamo che lui è uscito dal governo di Hollande proprio per lanciarsi in questa avventura politica, quindi comunque insomma fino a poco tempo fa era nel governo che adesso è tanto vituperato. Da Hollande e dai cosiddetti, quelli che noi chiamiamo i poteri forti, i poteri collegati alle logiche europee, i poteri banchiere di professione, viene dalla Rothschild. Quindi la discontinuità che si è verificata in Inghilterra con Exit, in America con Trump, in Francia è andata a prodursi in un modo del tutto inedito, cioè nella scelta di un giovane che ha dalla sua sicuramente una personalità molto, molto nuova, molto fresca, ma che temo rappresenti la continuità dentro una Francia al declino economicamente, con grandi problemi sociali, come sappiamo, con un terrorismo. Certo, sentiamo queste. Sentiamo un attimo Macron e questo tono che appunto a Silvia è sembrato un po' così, un po' debole, sicuramente dopo aver sentito quello super assertivo di Marine Le Pen, c'è una bella differenza. Sentiamo Macron. Je le sais, vous attendez. Je souhaite, dans 15 jours, devenir votre président. Le président de tout le peuple de France, le président des patriotes face à la menace des nationalistes. Ecco, anche lui vuole essere appunto il presidente dei patrioti, però sicuramente ha un tono, come diceva Silvia, anche magari solo proprio ascoltando il tono, senza neanche focalizzarsi sulle parole, ben diverso da quello di Marine Le Pen. Grazie intanto anche a tutti gli ascoltatori che stanno già mandando messaggi al 349-238-6666, anche a chi segnala come sempre le temperature, per esempio Marco che segnala che ci sono 7 gradi a Bellaria. E poi c'è anche chi mi definisce scorretta e scontata, e non so, o di parte. Io cercherei di non essere di parte, solo un partito di centrodestra come quello di estrema centrodestra come quello di Marine Le Pen sicuramente mi colpisce. E vi segnalo a questo proposito oggi sul Foglio un breve articolo del direttore Claudio Cerasa, lo riconosciamo perché è firmato con una ciliegia, così come quelli del fondatore Giuliano Ferrara con l'elefantino rosso, intitolato "Perché la destra non può permettersi di copiare lo sciagurato modello Le Pen". Ecco, questo sicuramente è un'opinione molto, molto chiara. Insomma, secondo il direttore del Foglio non è un buon modello di centrodestra quello della Le Pen. Oggi i giornali sono zeppi di interviste a Matteo Salvini, che invece dice che quello è il modello da seguire, quella è la destra che può vincere anche in Italia, che poi sono tutte frasi un po' così, sembrano un po' degli slogan, anche perché la situazione, anche la situazione economica italiana è difficile, ma sono problemi diversi da quelli della Francia, quindi non si capisce bene come si possa usare uno stesso modello per due paesi così diversi. Tu, Silvia, cosa pensi di questa centrodestra che ha preso più del 21% di voti, come, e secondo Angelo Maria crescerà ancora? Qui da noi non si sa bene cosa succederà. Si dice che le forze di centrodestra unite avrebbero la maggioranza, però Berlusconi anche ieri è tornato a dire: no, il mio modello non è il Front National di Marine Le Pen, il mio modello di destra. Certo, e anche dobbiamo dire che la Meloni non è Le Pen, ecco, e quindi delle prove di dialogo che ci sono state tra, appunto, tra Berlusconi e la Meloni, secondo me possono comunque andare avanti. Secondo me è Salvini che è l'incendiario, no? da questo punto di vista, appunto, che vediamo che oggi dà del burattino elegante, chiede alla sinistra francese di votare per Marine Le Pen. È una destra, in Francia è una destra che c'è sempre stata, questa è molto, mentre appunto questo tipo di destra in Italia secondo me è nuova, in Francia c'è sempre stata, cioè lei è figlia, ecco, certo. Non è il padre noto, ecco, mentre questa destra di Salvini non ha nessun padre, ad esempio nel suo partito, perché la rotta con Bossi, abbiamo visto che c'è, quindi sono due cose tutte diverse. È questo che io non vorrei, questo abbraccio tra Italia e Francia, che in questo momento proprio non vedono, sono due paesi che si possono riflettere, hanno problemi analoghi, ma la Francia ha un problema di integrazione molto molto più profondo di quello che c'è in Italia, ecco, e su forse quello si giocherà, sì, infatti, tanto. Questo è anche. Noi appunto rispetto all'Italia, se si guardano poi i numeri, se si riflette, forse il loro problema più grande in questo momento è proprio quello dell'integrazione. Tra l'altro un ascoltatore precisissimo mi ricorda che in realtà nel 2002, quindi forse sì, lì ci fu un po' l'effetto 11 settembre, non so, comunque Jean-Marie Le Pen, papà appunto di Marine, andò al ballottaggio. Arrivò quindi già un ballottaggio, certo, ci fu già un ballottaggio, quindi insomma non è scioccante questo, perché poi era stato praticamente divorato, però certo, al ballottaggio era arrivato, certo. Angelo, sì, Maria, secondo te appunto dalla Francia ci saranno delle conseguenze sulla centrodestra in Italia, che ancora appunto deve prendere un po' forma, perché Salvini continua a ripetere che non vuole un'alleanza, certo, a qualsiasi condizione con Meloni o eventualmente Berlusconi. Se vogliamo portare pari pari in Italia lo schema di gioco francese, io penso che ad avvantaggiarsene possa essere la destra moderata, la destra di centro, quindi più quella di Berlusconi che non quella di Salvini. Macron è un uomo di centro. E dico Berlusconi ancora di più di quanto non dica Renzi, perché Berlusconi dalla crisi di Forza Italia forse può avere le mani libere e costruire una sorta di movimento, appunto come quello di Macron, senza grandi paletti ideologici, senza grandi radicamenti storici, che è appunto la cifra che ha caratterizzato Hommage di Macron. Dunque, mentre si parla di Renzi, io parlerei di Berlusconi, se, ripeto, vogliamo spostare pari pari in Italia l'architrave del voto francese. E poi credo che anche una grande differenza sia che noi abbiamo qui il fenomeno naturalmente del Movimento 5 Stelle, che però non è mai stato, si dice che abbia raccolto voti sia dal centro, dagli ex elettori di centrosinistra che da ex elettori del centrodestra, quindi è proprio difficile fare un paragone, mi sembra, tra gli attuali due scenari. Angelo il Maria. Centro, in Francia ha vinto il centro, quindi in questo senso sia Salvini da una parte che Grillo dall'altra dovrebbero essere svantaggiati da questo segnale. La famosa discontinuità in Francia si è risolta in un maquillage cosmetico. Tra l'altro gli ascoltatori che dicono che siamo, io forse in particolare, contro la Le Pen, no, non sono contro nessuno, io spero naturalmente che se dovesse vincere lei o se dovesse avere, come probabilmente sarà, molti voti e quindi molta forza in Parlamento, dia un contributo positivo. Fa semplicemente effetto vedere, in un momento in cui credo che la soluzione dei problemi dell'immigrazione non sia né alzare muri né alzare i toni, sentire appunto a volte toni così estremi, ma che io sia contro qualcuno, no, cioè spero anzi che anche lei capisca che non, soprattutto quando l'immigrazione ce l'hai già in Francia, la soluzione non è appunto sparare a zero. Le frontiere, come la sua prima esternazione dopo appunto l'attentato sugli Champs-Élysées, adesso chiudiamo le frontiere, e insomma da un politico mi aspetto anche qualcosa. Un'analisi o delle ricette un po' meno demagogiche, vero? Che sì, semplicistiche, perché chiudi le frontiere, bravo. Noi invece ci fermiamo un attimo solo per la pausa per il traffico, poi magari cambiamo argomento, tanto sicuramente poi durante il corso della giornata giustamente tutti seguiranno le prime reazioni a questo primo turno di elezioni presidenziali in Francia. Il traffico. Mattino. Io credo che la polemica politica sia scandalosa, perché qui abbiamo due rapporti Frontex che accusano le ONG di essere in combutta con i trafficanti di uomini, con gli scafisti. Noi siamo molto preoccupati, e quando io sento Saviano o il Partito Democratico scandalizzarsi per le mie parole, penso ad una schiera di ipocriti che in questi anni hanno sempre finto di non vedere il business sull'immigrazione che c'era in Italia, e infatti poi ci siamo ritrovati con Mafia Capitale. Ecco, non posso accontentare l'ascoltatore che dice lascia stare il Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle io credo che non lo possiamo lasciare stare, primo perché appunto è una forza politica sempre più forte nel nostro paese, se si votasse oggi sarebbe anche il primo partito, con le difficoltà che sappiamo del PD, quindi no, non lasciamo stare il Movimento 5 Stelle, cerchiamo di essere il più obiettivi possibili, e questa è una delle grandi polemiche di questi giorni. Ieri proprio sulla stampa c'erano due pagine su questa questione, cioè per cercare di capire se queste accuse arrivate alle ONG, naturalmente anche qui ad alcune ONG, perché anche generalizzare qui è pericolosissimo, alcune ONG che in qualche modo, magari anche inconsapevolmente o scegliendo il male minore, in qualche modo aiutano di fatto l'immigrazione clandestina, o comunque non sono d'ostacolo alle navi che arrivano verso l'Italia. Anche oggi sui giornali molto spazio a questo attacco del Movimento 5 Stelle alle ONG, e tra l'altro c'è poi anche lo scontro con Renzi e Saviano che invece difendono a spada tratta le ONG. Angelo Maria, a te sembra appunto, perché poi polemica politica, io mi piacerebbe appunto che qualcuno leggesse davvero questo rapporto risk analysis di Frontex, oppure le interviste che il direttore di questa agenzia ha dato a vari giornali, tra cui Die Welt, e poi si ragionasse seriamente quali sono i rischi di avere così tante ONG in campo vicino alle navi di Frontex o delle varie marine, naturalmente prima di tutto la marina militare italiana. Tu, Angelo, cosa pensi? C'è del fondamento? Sono d'accordo con Di Maio, sono i 5 Stelle, cioè si sa che l'abbiamo detto più volte anche in questa trasmissione, l'ho detto che ci sarebbe da vedere molto più chiaro in quello che succede nel mondo appunto delle navi che fanno questo lavoro, delle barche, delle ONG, c'è appunto tanti denari che circolano, Io credo che se ci si lavorasse verrebbero fuori delle cose molto imbarazzanti, come fu a Roma per Mafia Capitale, dove le principali associazioni del cosiddetto volontariato e del terzo settore si rivelarono invece delle centrali paramafiose. Quindi sono d'accordo con Di Maio nel dover guardare molto più attentamente da parte della magistratura e della polizia, che però appunto in questi casi risente o di un pregiudizio sociopolitico e quindi a favore di una generica fratellanza dei popoli, o forse di qualche connivenza, perché molte delle accuse riguardarono per esempio Alfano, quando era ministro dell'interno, proprio delle associazioni vicine al suo movimento gestivano in parte questo traffico. Ecco, però ricordiamo che sempre sulla stampa oggi, due pagine, la 8 e la 9, c'è anche una mappa, cioè stiamo parlando di organizzazioni non governative come Save the Children, sulla cui serietà credo nessuno possa avanzare dei dubbi, o Medici Senza Frontiere. Medici Senza Frontiere, sì. Quindi, Silvia, che sono quelle più conosciute. No, io, questa è una cosa con cui ho parlato anche con esponenti di Frontex, perché quel rapporto di Frontex inizia col rapporto 2016, in cui appunto è vero, e dice Frontex che bisogna, intanto cita già delle inchieste che c'è in Italia, si sta indagando su questo, e quindi si limitava a questo, non parlava di combutte, così come parla già la scelta dei termini di Di Maio, insomma lascia a pensare. E allora, era la stessa accusa, comunque anche Angelo Maria, che veniva data con l'operazione Mare Nostrum, esattamente, di fare i taxi, le stesse parole, le stesse accuse erano state date con l'operazione Mare Nostrum. Ora, è vero che mettere in mare una nave costa decine di migliaia di euro o di dollari al giorno, cioè sono operazioni costose queste che fanno le navi umanitarie. Su Save the Children e Medici Senza Frontiere noi sappiamo tanto, perché operano con noi in Italia, ci sono altre ONG con dei finanziamenti che noi non conosciamo. Allora, secondo me non si deve offendere nessuno se, come abbiamo fatto anche con tutte le ONG, si va anche a guardare, a vedere come sono finanziate. Una tua collega aveva fatto un bellissimo lavoro sulle ONG, sui finanziamenti, perché girano tanti soldi, costa tanto tenere le navi in mare, ne arrivano anche tante, perché quando Medici Senza Frontiere ha detto che avrebbe messo la nave in acqua per soccorrere i migranti, sicuramente è stato un elemento che ha fatto mandare i soldi. Poi se tu leggi oggi proprio sulla stampa questa fonte anonima, secondo me di Frontex, che racconta come vanno adesso le cose, combutta, sanno che ci sono le navi umanitarie e sono al limite delle acque internazionali, a volte entrano, però come c'è scritto ancora oggi sulla stampa, è la nostra Marina Militare anche a dire noi lavoriamo insieme a loro, noi abbiamo delle nostre navi lì, che non stanno denunciando granché. Noi quello abbiamo, ci sono stati giornalisti la scorsa settimana a vedere quello che succede. Allora bisogna stare attenti, lanciare secondo me queste accuse in un braccio di mare dove c'è la tragedia, e questo non voglio fare la buona per forza. Però è vero che loro non devono offendersi se guardiamo quanto costa fare questo lavoro e come vengono finanziate. Però parlare di combutta in questo modo politico, secondo me è irrispettoso. Angelo, ti do subito la parola. Solo due numeri, che dall'inizio dell'anno sono 1000 i morti da gennaio, quindi parliamo comunque di operazioni che nelle loro migliori intenzioni vogliono salvare queste vite. E poi un dato dei Medici Senza Frontiere, sempre dall'intervista al coordinatore dei progetti sui migranti sulla stampa di oggi, soltanto nel weekend di Pasqua, pensate, le navi di Medici Senza Frontiere, la nave di Medici Senza Frontiere e quelle delle altre ONG hanno salvato 8.500 persone. Angelo. No, certo, ripeto, e ha ragione Silvia, bisogna distinguere, ci sono assolutamente delle ONG molto accreditate, all'interno delle quali certamente possiamo essere sicuri, insomma, però c'è tutto un sottobosco, l'immigrato porta soldi, si sa che il governo italiano finanzia il soggiorno di questi fratelli sfortunati e in grande difficoltà. Quindi dobbiamo non avere pregiudizi e fa bene il vicepresidente della Camera a porre il problema con perentoria chiarezza. Non capisco Saviano a che titolo parli, un uomo Saviano che compare e scompare senza una logica, almeno io non ne capisco la logica, non so di cosa sia esperto e si lancia in affermazioni molto pesanti, non suffragate da un curriculum, da un'esperienza, come ieri che ha detto: caro Di Maio, non esprimerti come un Salvini qualunque. Ma Saviano sappiamo che vuole esprimere la sua opinione su tutto, quindi io anch'io lo lascerei proprio perdere. Cosa vuol dire come un Salvini qualunque? Salvini è il sinonimo di stupidità, di che cosa? Infatti guarda, l'unica cosa da evitare appunto è tenere sempre presenti alcuni numeri, come diceva Silvia, che nessuno si offenda se si chiedano i rendiconti, per esempio, dei finanziamenti. E però allo stesso tempo anche appunto sempre tenere presente che c'è una azione di queste ONG che cerca anche di supplire a quello che la Marina Militare, certo, o le navi di Frontex da sole non possono, certo, fare. Quindi erano le accuse a Mare Nostrum. Adesso se noi sappiamo che anche certe navi commerciali con l'obbligo del soccorso in mare, quella rotta non la fanno più perché hanno l'obbligo di fermarsi, perché poi questi devono sbarcare i migranti, e quindi stanno alla larga, allungano la rotta, gli conviene di più allungare la rotta piuttosto che passare in quel braccio di mare e dover tirar su i migranti. Vorrei dire una cosa di cui mi assumo la responsabilità. Quel settore è uno dei più opachi che esistano, perché in nome di un rispetto per il lavoro che quel mondo del sociale svolge, non ci siamo mai permessi di mettere dentro il naso, e all'interno di quel mondo, proprio in forza di queste regole opache, di questi controlli assenti, potrebbe annidarsi la criminalità organizzata. No, ma per carità, nessuno deve essere al di sopra di, appunto, sentirsi al di sopra di qualsiasi controllo. Assolutamente, questo sono perfettamente d'accordo, anche perché insomma, come i disonesti o comunque le persone poco trasparenti si annidano ovunque, anche nella migliore delle organizzazioni non governative. Hai citato Mafia Capitale, ho letto bene quell'inchiesta ed è davvero una storia emblematica di come proprio nelle associazioni che si ritenevano le più probe, le più impegnate, in realtà c'era, ahimè, il virus della criminalità, e sappiamo tutti cosa è venuto fuori. Sì, l'unica cosa appunto che mi fa effetto è sentire queste parole, che perché le parole poi pesano, essere in combutta, le ONG sono taxi. Ieri c'era la foto con cui apriva la prima pagina dell'Unità, era una nave quasi rovesciata, e possiamo tutti immaginare l'angoscia di quelle persone su quella nave. Già chiamarla nave è esagerato, e il titolo era: se questo vi pare un taxi. Ecco, forse l'ennesimo, probabilmente destinato a cadere nel vuoto, appello a pesare bene le parole. Grazie a Silvia Brasca, la nostra amica giornalista della Sette, grazie a Angelo Maria Perrino di Affari Italiani, una buona settimana a entrambi, un buon 25 aprile per domani. Noi ci risentiamo subito dopo il GR. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, buon lunedì agli ascoltatori, grazie agli ascoltatori che mandano già messaggi al 349-238-6666 o sms o whatsapp. A chi chiede di Alessandro, ha fatto questo piccolo ponte, lo ritroveremo mercoledì. E cominciamo dalle prime pagine dei giornali.